Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte. Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi. Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Silvio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E allora, una buona sera a tutte e tutti. Dopo una lunghissima pausa estiva, meritata perché abbiamo faticato un sacco quest'anno, torna per la vostra gioia la Gazzala... No, Radio Po... No, la Gazzaladra, la Gazzaladra. Cioè, non ti sei imparato dopo un anno di trasmissione, no, qual è il nome? Abbiamo fatto un colpo di stato e abbiamo cambiato nuovamente nome alla faccia tua, Mocio. E non mi risulta. E poi ci chiamiamo. Comunque, insomma, è tornata Radio Possum per parlare di liberazione animale della terra e niente. Partiamo con la prima puntata post estiva. Ma ti ci invitano per le serate a fare lo speaker? Sono un grande intrattenitore. Tu non dici niente, eh? Sì, ciao a tutti. E le cose da dire, ecco, dopo queste vacanze lunghe sono tante. Oggi incominceremo a piccole dosi anche per non farvi fare un overdose così di antispecismo. Però niente. Questo è quello che ti abbiamo detto a te. In realtà ti teniamo 2 ore qua dentro. Vabbè, dai, facciamo finire la canzone e vediamo di metterci in contatto con il primo ospite. Va bene? Va bene. Vedremo quanto sarà selvaggio quando avrò finito. Ti piace la guerra, vero? Bene. Allora, ecco, dovremmo essere in collegamento. Ci senti? Pronto? Sì, eccoci qua. Allora, siamo in collegamento non con... Non sento niente. Non no. Ci senti? No, non sento niente. Pronto? Ora ci senti? Ora sì. Ok. Allora, parliamo bene nel microfono. Dicevo, siamo in collegamento con un compagno dal nord di questa funesta penisola italica. Per parlare appunto non di cose belle che sono successe in questa estate, diciamo è stata un'estate abbastanza intensa dal punto di vista della repressione, sono successe varie cose, ma ti lascio la parola appunto se ci vuoi fare un quadro generale intanto per capire di che cosa stiamo parlando e poi entriamo più nello specifico. Sì, intanto un saluto a tutti e tutte, in particolare ai prigionieri e gli indagati che quest'estate ha portato con sé. Quest'estate, come dicevi, ci sono state diverse operazioni repressive, l'ultima delle quali appena a pochi giorni fa, questo fine settimana. In 3 mesi estivi ci sono state appunto più di un'operazione al mese. E, la prima è stata Ardire, su cui tra l'altro era stata fatta anche una trasmissione proprio su Radio Onda Rossa. La seconda è stata denominata Mangiafuoco. La terza, abbastanza recente, ha portato all'arresto di Massimo Passamani, che è stata denominata Exodide. E l'ultima, che ha colpito compagni, soprattutto gravitanti intorno a Ravenna, è stata chiamata Thor. Senti, ci puoi spiegare più o meno qual è stato il motivo di queste operazioni, chi hanno colpito, perché, per quali motivi? Su cosa poggiano, cosa contestano e via dicendo, insomma. Dunque, io penso che siano operazioni abbastanza, alcune abbastanza diverse le une dalle altre. Anche le forze dell'ordine coinvolte sono differenti, nel senso alcune sono state condotte da Ross, altre le ultime due dalla Digos invece, quindi, e anche le accuse sono differenti, nel senso alcune partono dal 270 e altre che dal 270 bis, associazione sovversiva, e altre invece con il 416, quindi associazione a delinquere, sempre con finalità eversiva. Quello che probabilmente le contraddistingue, le unisce, quello che le lega, insomma, è che sono azioni repressive rivolte prevalentemente verso gli anarchici. E insomma, si sta avendo un accanimento contro qualunque aspetto della galassia anarchica, dalla pubblicazione e discussione sul web, quindi l'attacco a diversi siti internet, da Culmine a Parole Armate, anche alcune persone di Anarchaos, non mi ricordo bene, e fino alla galassia più ecologista e animalista, con l'operazione Mangiafuoco, e anche la Val di Susa con l'operazione Exodide. Quindi mi sembra un attacco a tutto tondo contro tutte le varie componenti della galassia anarchica. E spesso e volentieri sono anche delle inchieste che sono palesemente delle montature. Sembra proprio, anche il modo in cui sono state raffazzonate queste cose sembrano proprio indicare la volontà e la foga con cui l'apparato repressivo sta a premura di sbarazzarsi degli anarchici. L'operazione che forse interessa di più anche il vostro programma, visto che riguarda... Sì, infatti ti volevamo chiedere se ci potevi raccontare o spiegare un po' l'operazione Mangiafuoco, in particolare di cosa si tratta e chi è coinvolto. Allora, l'operazione Mangiafuoco si è manifestata con un'ondata di perquisizioni nella notte tra l'8 e il 9 agosto, e sono state portate avanti dai ROS, quindi insomma una roba fatta dai carabinieri. Ci sono 17 imputati e l'accusa è appunto associazione a delinquere con finalità eversiva, con finalità di incendio e di danneggiamento in seguito ad incendio. Le perquisizioni sono state fatte, era la notte tra il 7 e l'8, non tra l'8 e il 9, scusate. Le perquisizioni, in alcuni casi le perquisizioni sono state fatte sfondando porte e puntando pistole in faccia sia ad imputati che anche a semplici coinquilini. Addirittura sono arrivati persino in Germania, dove probabilmente se gli dici terrorista si immaginano dei terroristi, e davanti a delle persone attonite, un quartiere intero circondato da centinaia di poliziotti, entrati sfondando la porta, puntando pistole, ammanettando a faccia in giù le persone, che tra l'altro essendo italiane capivano anche un po' poco di tedesco, sono rimaste un po' scioccate. E le accuse riguardano degli attentati, tra cui uno all'IBM in solidarietà con Silvia Biglietti-Costa, che tra l'altro risultano, erano Silvia e Billy sono stati da poco scarcerati, Costa verrà probabilmente scarcerato a breve anche lui, comunque beh, lo ricordiamo, sono tre compagni ecologisti in prigione in Svizzera dal 2009, mi sembra, e tra l'altro sono anche loro indagati in questa operazione Mangiafuoco, un attentato a Leni, e l'incendio di un ristorante Roadhouse, un ristorante noto per servire bistecche, e anche un incendio a un laboratorio di sperimentazione sul pollame facente capo alla facoltà di agraria. E durante le perquisizioni sono anche state sequestrate dei soldi che le persone a cui sono state sequestrate hanno dichiarato come risparmi personali. Tuttavia il fatto che avessero avuto proprio mandato o comunque indicazioni avessero ricevuto istruzioni di sequestrare dei soldi non è un caso, perché due delle persone coinvolte, tra l'altro quelle a cui anche sono state sequestrate dei soldi, gestiscono una cassa di solidarietà anticarceraria, Aracnide, che tra le altre cose sta seguendo i prigionieri dell'operazione Ardire, che ha portato in gabbia altre 8 persone, e questo già a giugno. E quindi sembra proprio un'operazione anche volta a colpire probabilmente la solidarietà verso i detenuti, insomma a spezzare il movimento, anche cercando di sottrargli risorse economiche che, cioè, sappiamo non essere abbondantissime nel nostro ambiente. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, in particolare questa operazione di cui stai parlando, ma più in generale colpisce persone che da diversi anni si occupano di attivismo per la liberazione animale e per la liberazione della terra, con tutte le cose che hai detto te. Noi ti volevamo chiedere una cosa in particolare, da un punto di vista emotivo, che poi è una cosa che poi magari una persona non si immagina che cosa vuol dire vedersi piombare dentro casa le cosiddette forze dell'ordine per una perquisizione con tutti i modi che hanno e via dicendo. Da un punto di vista emotivo, e anche se tu ti senti di dare dei consigli magari a come comportarsi, cosa si prova, quale linea di comportamento adottare e via dicendo. Durante una perquisizione, dici? Sì, perché scusa, ti ho sentito un po' male. Quindi sì, diciamo no. Che la domanda è, non so se la vuoi ripetere perché ti ha sentito poco. Ah sì, la ripeto allora. Mi senti? Sì, ora okay. Sì. Ti volevo chiedere, di fronte allo Stato, diciamo, che piomba in casa di notte, ti perquisisce con i modi che sappiamo, intimidendoti e via dicendo, tutte cose che conosciamo bene, che però magari poi molte volte le persone vivono come qualcosa di lontano, no? Finché non lo provi veramente non riesci a capirlo. Dunque, ci puoi un po' descrivere le tue sensazioni, i tuoi pensieri e anche magari in un certo senso, diciamo così, dare dei consigli su quale comportamento adottare quando ci si trova coinvolti comunque in operazioni repressive, così anche, come dire, dove diciamo tendono ad accollarti di tutto e di più, a momenti accollano pure, che ne so, la morte del Papa, se non fosse morto di vecchiaia. Se non fosse che non muore mai. Infatti. Vabbè, intanto è la prima volta che vengo coinvolto in una cosa del genere, ci sono persone che purtroppo per loro avrebbero molto di più da insegnare. Sicuramente molto dipende dalle modalità con cui entrano in casa. Ad esempio, per quel che riguarda me, sono stati abbastanza tranquilli, ovviamente sono imboccati alle 4:30, non è che li saluti con un sorriso, però restare tranquilli pur senza collaborare, non dire assolutamente niente, non rispondere assolutamente a nessun tipo di domanda che possa essere anche apparentemente, che ne so, sulla tua famiglia, su veicoli che possiedi, assolutamente niente. E poi dipende anche molto dalla condotta che devi tenere, insomma, io non so come avrei reagito se mi avessero puntato una pistola in faccia e mi avessero ammanettato, come è successo a, anche a un compagno di Modena. E, però ci sono alcune cose che secondo me sono, sono importanti. E, in questo momento viviamo un periodo in cui essere anarchici o comunque concepire un tipo di lotta senza compromesso ti mette a rischio, anche senza essere necessariamente chissà che terrorista, senza essere necessariamente quello che ha sparato di Nolfi, ti mette a rischio di essere coinvolti in un'operazione repressiva. E per questo chi ha la percezione che potrebbe da un giorno all'altro ritrovarsi gli sbirri in casa, potrebbe essere utile cominciare a parlare con le persone che ha attorno. Ad esempio io ho trovato molto conforto nel fatto che sia la mia ragazza, da cui sono andati tra l'altro, che abita in un altro posto, sono andati persino da sua madre, e sia i miei genitori, nonostante questi sbirri siano venuti e tutto quello che ne consegue, mi siano comunque rimasti accanto e non si siano staccati. Ma questo può succedere solo se con queste persone prima si comincia un certo tipo di discussione, si fanno capire le proprie ragioni, cioè, altrimenti si rischia di dover affrontare, oltre alla sicuramente alla botta emotiva di una perquisizione, di un'accusa per un reato associativo, anche dei guai personali, privati. In secondo luogo sarebbe utile conoscere bene i propri diritti e mostrarsi molto sicuri su questi, avere a portata di mano il numero di un avvocato di fiducia, il numero di cellulare di un avvocato di fiducia da poter chiamare e dirgli io posso fare questa telefonata all'avvocato, perché la potete fare e dovete aspettare che arrivi. Questo vabbè, probabilmente sarà l'avvocato a dirgli di passarvi chi sta facendo la perquisizione e sarà lui a dirgli questa cosa. Un'altra cosa importante è dirgli essere consapevoli che quando vi passano dei fogli da firmare non siete assolutamente obbligati a firmarli. Non è solo un discorso di etica, come dire io non avvallo quello che fai, non ti riconosco, non firmo questo foglio. È anche una cosa cautelativa, non sai che cazzo ci fanno con la tua firma, insomma sempre meglio non firmare. Altre cose. Senti, sappiamo che in questi giorni c'è stato anche l'incontro di Liberazione Animale, varie realtà sono salite anche per parlare di quello che è successo quest'estate con questa diciamo ondata repressiva molto grave. Se ci vuoi anche diciamo magari fare un resoconto di quello che è stato l'incontro di Liberazione Animale, di che cosa si è parlato, come sono stati affrontati questi temi. Sì. Soprattutto qual è stata diciamo la reazione del movimento di fronte a questi fatti, di fronte comunque a questa ondata repressiva che coinvolge un po' tutti e tutto, cioè non è ristretta soltanto all'ambito animalista, diciamo così, ma comprende anche l'ambito animalista. Certo, devo dire che all'incontro di Liberazione Animale c'è stato un momento in cui si è stata la presentazione di due progetti di sostegno a insomma agli inguaiati, tra cui la presentazione appunto della Cassa di Solidarietà Anticarceraria Anarchide e Arachnide, sì. e si è parlato anche dell'operazione Mangiafuoco, perché appunto ha colpito, come dicevi, si capisce anche dagli attentati che vengono contestati a tutti noi, che ha colpito la parte più spiccatamente con istanze ecologiste antispeciste del movimento anarchico. C'è anche stato un momento in cui si è parlato dell'operazione Repressia Mangiafuoco, però onestamente non è che ho riscontrato che molte persone sicuramente tra gli organizzatori si sapeva di questa cosa, però non, anche perché alcuni degli organizzatori sono anche coinvolti, però non mi è sembrato che a livello di partecipante medio ci fosse tutta questa consapevolezza. Devo dire che ho avuto un po' la percezione che il movimento di liberazione animale si stesse un po' staccando da quello anarchico, libertario in genere. Durante l'incontro ci sono state diverse discussioni, si è parlato, non so, della campagna Chiudere CNIL, sia parlando degli aspetti positivi che anche negativi. Si è cercato di ricordare anche il discorso delle infiltrazioni fasciste, di come combatterle. Ci sono stati anche bei momenti di discussione sia sul superamento del veganesimo come unica, perché diverse realtà stanno cominciando a utilizzare il veganesimo come unica forma di propaganda, e tralasciando molte altre cose che sono altrettanto importanti nella lotta di liberazione animale. Eppure ci sono state diverse discussioni anche impostate in modo che questa contraddizione venisse fuori, che secondo me hanno raggiunto un buon livello, anche piuttosto partecipate. Dal punto di vista dell'operazione Mangiafuoco c'è stato questo spazio in cui se ne è parlato, non ho visto grandi riscontri, non si è parlato molto all'incontro. Senti, ma prima stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto? Volevo aggiungere che sicuramente essere coinvolti in un reato associativo che possa essere il 170 bis o il 416 può far spavento. Sicuramente bisogna tenere a mente che questo vuol dire che i vostri telefoni sono sorvegliati, che le vostre mail sono probabilmente controllate. Tra l'altro a noi ci hanno portato via tutti i computer, quindi insomma anche i nostri. Però non bisogna, secondo me, perdere la calma. Una cosa importante è continuare senza dar di matto telefonando, tanto meno, ma questo mai, bisogna sempre far conto che il telefono sia sorvegliato. Telefonando a destra e a manca, dicendo spaventati a qualcuno, che ne so, ci avete scoperti nel caso le persone fossero realmente responsabili di qualcosa. Bisogna mantenere la calma e tenere presente che ci sono persone che sono state coinvolte in almeno 4 o 270 bis uscendone indenni per archiviazione o comunque, insomma, non è così facile essere condannati per un reato associativo. Occorre, secondo me, mantenere la calma ed avere un buon avvocato, un avvocato di fiducia che sicuramente saprà darvi buone indicazioni. E un'altra cosa, appunto, c'è anche dal punto di vista pratico una perquisizione in cui vengono, ti portano via magari il computer con cui magari lavori, lo portano via le persone che ti stanno vicine, coinquilini, genitori, amici, parenti, che ne so. Sono tutti aspetti che magari uno non valuta, però effettivamente poi a trovarci in mezzo sono cose che scocciano, ma non perché scocciano, perché effettivamente hanno motivi valida poi certe cose quando ti abitui ad usarle. Niente, altre cose, non saprei se avete altre domande. No, una semplice osservazione, tra l'altro prima parlavi di intercettazioni, è bene ricordare tra l'altro che può capitare, diciamo così, che le forze dell'ordine usino pezzi di conversazione o testi scritti assolutamente innocenti, diciamo, usandoli come presunto indice di chissà quale complotto e di chissà quale azione sfondo terroristico finalizzata allo sterminio di massa, insomma. No, adesso siamo, però, quindi, insomma, comunque tu prima hai fatto un appello all'attenzione alla propria sicurezza, alla propria privacy, che è una cosa fondamentale in un mondo in cui sempre più in pieno di telecamere a ogni angolo della strada, di ingegneria tecnologica e via dicendo, insomma. E questa è una cosa importante da ricordare, a prescindere da tutto proprio. No, ci sono anche, effettivamente, proprio durante l'incontro di Liberazione Animale si è fatto un piccolo workshop sulla sicurezza, ricordando come il vostro computer portatile, se ha una webcam e ha sicuramente un microfono, il vostro computer, possono essere attivati remotamente, cioè potrebbero tranquillamente, sono successe cose così, possono tranquillamente riprendervi, voi pensate che sia spenta ma è accesa e posso riprendervi, insomma. E poi sì, come dicevi tu, ad esempio per l'operazione Ardile sono stati usati stralci di conversazione assolutamente volutamente fraintesi, ma non è la prima volta che questo succede. Addirittura per l'operazione Mangiafuoco, perché ho da poco letto parte delle carte, però adesso tra le cose che ho letto, cioè le carte che finora sono state date all'avvocato, non ci sono neanche intercettazioni, si basa tutto sulla posizione dei telefoni cellulari in quel momento, cioè nei momenti in cui, quindi magari, che ne so, c'era un'iniziativa in un posto a Bologna, eravamo tutti lì, siccome la cella, insomma il quadrante del ripetitore lì vicino comprendeva sia il luogo della dell'iniziativa sia il luogo colpito, queste sezioni in cui viene diviso il territorio dal satellite del cellulare sono piuttosto grosse, siccome il cellulare si trovava all'interno della stessa sezione, della stessa cella si chiama, dicevano evidentemente erano lì per queste date persone evidentemente erano lì per compiere questo attentato, quindi neanche utilizzando intercettazioni, utilizzando semplicemente la posizione del cellulare, e questo è un altro grande nodo, secondo me, l'utilizzo del cellulare. Un'ultima cosa, se posso dire, è che a proposito delle intercettazioni, spesso vengono deliberatamente pubblicate dalle forze dell'ordine, nelle carte, nel faldone, tutta una serie di intercettazioni, cioè alla fine delle indagini non hanno nessuna utilità, l'unica utilità che hanno è creare scazzi tra le persone, estrapolando frasi o anche non estrapolando frasi, è possibile che una persona abbia un'opinione negativa di un'altra, però non so, non si sente di dirglielo per un motivo o per l'altro, o magari sta anche semplicemente scherzando, oppure veramente vengono estrapolate frasi, manipolate in maniera che poi la persona di cui si sta parlando nell'intercettazione veda, cioè si senta offesa da quello che la persona intercettata ha detto. Questo è uno dei motivi per cui ad esempio gli imputati nell'operazione Ardire, almeno gli arrestati per l'operazione Ardire, hanno chiesto la rimozione, almeno dai siti dei compagni, del faldone, insomma, cioè, perché non è bello che chiunque possa leggere le tue cose private, rischiando di creare scazzi, cioè più di una volta è successo che magari delle realtà si siano disgregate proprio in seguito al fatto che avevano letto tutti quanti fino in fondo il faldone e si erano creati problemi di natura personale tra le varie persone, quindi è importante prima di leggere il faldone chiedere agli imputati se hanno piacere che questo venga fatto o meno, è proprio una cosa importante secondo me. Va bene, senti, ti ringraziamo per questo contributo, sicuramente molto importante e molto apprezzato. Facciamo a te e a tutte le altre persone i nostri migliori auguri e poi comunque ti ricordiamo che Radio Onda Rossa e nel nostro piccolo, la nostra trasmissione è sempre aperta per sostegno, solidarietà, contributi e via dicendo, insomma. Sì, ho già avuto modo di constatarlo quando mi avete permesso di fare un'altra trasmissione proprio sull'operazione Ardire, infatti vi ringraziamo anche in questo caso per avermi in questo caso dato uno spazio. È uno spazio di tutti. Grazie a te. Un saluto a tutti e tutte, sempre solidarietà a tutti gli inquisiti e gli arrestati di qualsivoglia genere specie. Va bene. A presto. Ciao, buona ciao. Serata. Ciao. Ciao. Ciao. Buonanotte, ciao. Torniamo in studio. Momento di notizie dal mondo e anche un po' di angolo così gastronomico. Riassumere un mese e mezzo di quello che è successo nel mondo è un po' complicato, quindi vi diamo un po' le notizie più importanti, quelle un po' più rilevanti dell'ultimo mese e mezzo. In questo momento in Italia, con Green Hill che continua a essere sotto sequestro e i cani sono stati quasi tutti affidati, comunque la vivisezione rimane un po' il tema un po' più forte, e in questo senso ci sono diverse buone notizie, perché nelle ultime settimane ben 3 compagnie aeree che trasportavano animali dagli allevamenti o nel caso dei primati, a volte catturati anche in natura, come allo stato selvatico, come succede per esempio purtroppo nelle isole Mauritius, nei laboratori di vivisezione, fossero americani, europei o cinesi, hanno interrotto questi traffici. La prima compagnia a interrompere un traffico del genere è stata Air China, che ha detto basta al trasporto di primati diretti ai laboratori. Circa il 70% delle scimmie arrivava negli Stati Uniti con il loro volo. A luglio una decisione analoga è stata presa dalla compagnia israeliana El Al. E poi infine la terza compagnia è una piccola compagnia americana che si chiama Phoenix Air, che peraltro aveva portato doveva portare 23 scimmie giallo-verdi dalle isole Barbados fino a Roma per farle poi finire nei laboratori della Novartis a Siena. È stata lanciata una campagna contro Phoenix Air e questa compagnia aerea alla fine ha deciso di adottare una politica aziendale che non prevede il trasporto di primati destinati alla vivisezione. La lotta contro tutti coloro che si occupano del trasporto di animali è una lotta fondamentale nell'ambito del contrasto più generico alla sperimentazione animale, per cui queste sono comunque dei risultati importanti. Un'altra notizia da citare, questa prettamente italiana, è quella apparsa sul sito di essereanimali.org. Essere Animali è un gruppo di attivisti animalisti che abbiamo anche intervistato in una puntata di luglio o giugno, non mi ricordo. Hanno riscattato attivisti di Essere Animali, hanno liberato 12 conigli destinati alla produzione di carne e soprattutto documentato con filmato e foto l'angoscia della loro reclusione quotidiana. Sul sito essereanimali.org trovate foto, video e anche un dossier dell'allevamento cunicolo, cioè dell'allevamento del coniglio, le tecniche di allevamento, la sofferenza che essa comporta agli animali e via dicendo. Altra notizia che abbiamo anche pubblicato sul nostro blog radiopossum.noblogs.org è la notizia di una liberazione di 3 uccelli. Può sembrare una piccola notizia, anche se comunque ogni animale liberato e quindi ogni vita restituita alla libertà e sottratta allo sfruttamento e alla sofferenza è una notizia importante. L'aspetto peculiare e particolare di questa notizia è che questa liberazione è avvenuta in Vietnam, quindi in un paese asiatico, e c'è piaciuta pubblicarla e ci piace dargli risalto sia per segnalare come certe idee si stanno ormai diffondendo un po' in tutto il mondo e non sono più semplicemente confinate in Occidente, negli Stati Uniti, nell'America o in Europa, sia anche perché comunque noi italiani con il nostro pregiudizio etnocentrico pensiamo sempre, no, che l'Asia sia una sorta di, soprattutto la Cina, perché va molto di moda la Cina col fatto che mangiano cani e gatti, siano dei mostri, torturatori di animali, insensibili alle sofferenze degli animali. Questa notizia rivela che insomma invece attivisti animalisti esistono anche in Vietnam, esistono anche in Cina, dove molte persone liberano cani e gatti, e soprattutto a tutte queste persone che si indignano per un cane mangiato in Cina mentre loro stanno tranquillamente a casa a mangiarsi una bistecca, vogliamo ricordare appunto che un cane non è tanto diverso da una mucca o da una gallina, e soprattutto che certe squisitezze della società moderna come la vivisezione o come gli allevamenti intensivi non li hanno inventati i cinesi, gli orientali, gli africani o chissà quale altro popolo, li hanno inventati gli occidentali, e quindi insomma non siamo certamente meglio di altri. Vabbè, queste sono una rapida rassegna di notizie un po' di queste ultime settimane. Ne mancano molte, ma se no non facciamo in tempo. E siamo arrivati al momento degli appuntamenti. Ce n'è uno in particolare. Sì, lo cominciamo a lanciare ora, però lo ripeteremo perché si tratta di ottobre. Il 20 ottobre ci sarà un corteo nazionale contro ARL e la vivisezione a Correzzana. Infatti la lotta contro la vivisezione, anche se attualmente si è avuto il sequestro di Green Hill, la lotta alla vivisezione non si arresta, e appunto Arlan era stata già comunque colpita da una serie di proteste a febbraio scorso con l'arrivo delle 900 scimmie appunto a agli allevamenti di Harlan per essere poi smistati nei diversi laboratori italiani, ed adesso di nuovo appunto sotto attacco, perché la lotta alla vivisezione fortunatamente non è soltanto concentrata per la liberazione di cani beagle, ma appunto non fa differenza tra le specie e si sta estendendo a tutte le specie viventi, in questo caso alle scimmie detenute sempre a Corezzana, che è vicino Monza Brianza. E quindi ricordiamo tutti l'appuntamento il 20 ottobre 2012 per ricominciare un nuovo anno contro la vivisezione. L'ho detto tante volte. Sì, diciamo, tra le iniziative da segnalare, ricordiamo che la Villa Vegan occupata in quel di Milano è ancora sotto sgombero, e ci stanno tutta una serie di iniziative, vi veniamo a leggere quelle che ci saranno nei prossimi giorni appunto a Milano. Domani proiezione del documentario Il Delta del Niger del 2007, sabato 8 concerto dei Kalashnikov Romantic Punk da Milano più altri gruppi, domenica 9 pizzata con forno a legna dei Turpante, martedì 11 alle ore 21 proiezione di un documentario sulle rivolte in carcere in Grecia nel 2007, in Turchia nel 2001, domenica 16 pizzata con forno a legna dei Turpante di nuovo, e poi martedì 18 alle ore 21 proiezione del documentario Banda 22 ottobre, gli albori della lotta armata in Italia. Mandiamo una canzone? Sì, mandiamola. Prima di passare alla ricetta? La nostra canzone notturna preferita. Tasteful flesh means they're out of luck. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Rescue fangs, no tissue for the life served on our plate. Slice it up and again, let the funeral begin. From the cage to the plate, there's blood on your hands. Wave goodbye to a soul living half of the unknown. From the cage to the plate, there's blood on your hands. Vampire in you. To uphold. Tastes so good, can't let it go. Virgin blood for the vampire in you. Ooh. Screams for silent long before the flesh touches your tongue. Slice it up and again, let the funeral begin. From the cage to the plate, the blood on your Aspetta che non ti si sente, parla bene nel microfono. Eccoci tornati. No, non ti si sente. L'hai spento. L'hai spento. Dopo un anno di trasmissioni. Non ridere. Ed eccoci tornati per la ricetta finale. Arancini. Arancini veg. Incomincia a fare più fresco, quindi gli arancini possono essere di stagione, diciamo. Allora, ingredienti. Gli ingredienti sono molti. E adesso li leggerò. 200 g di seitan, 150 g di piselli surgelati, passata di pomodoro, mi prendono in giro, una cipolla, due carote, 5 foglie d'alloro, una bottiglia di olio extravergine, 1 kg di riso per risotti, amido di mais quanto basta, fecola di patate quanto basta, latte di soia non zuccherato quanto basta, sale quanto basta, due bustine di zafferano, farina di grano 00 quanto basta, una mozzarella veg filante, pan grattato quanto basta. Allora, procedimento. Il giorno prima cuocere il riso in acqua salata facendo passare un po' di cottura. Unire lo zafferano, mescolare e conservare in frigo tutta la notte. Preparare un ragù di seitan soffriggendo in olio evo le verdure con extravergine significa. Le verdure con l'alloro e aggiungendo prima seitan tagliate a cubetti piccolissimi e poi la passata e far cucinare fino a ottenere un ragù arancione molto denso. Salare a piacere e lasciare raffreddare in frigorifero qualche ora. Nel frattempo preparare in quantità molto abbondante una pastella a base di acqua, farina bianca, amido di mais, fecola di patate in parti uguali, sale e zafferano. Per preparare gli arancini mischiamo parte della pastella di riso fino a ottenere una consistenza più collosa possibile, ma avendo cura che rimangano solidi e malleabili. Prendiamo quindi nella nostra mano sinistra una bella pallotta di questo riso, la pressiamo bene e poi con l'indice della mano destra creiamo molto delicatamente un buco nel centro, nel quale metteremo della mozzarella veg e del ragù di soia nella maggior quantità possibile, ma lasciando lo spazio per chiudere il nostro arancino. Una volta chiuso l'arancino, con le mani dobbiamo continuare a dargli la forma cercando di mantenerlo solido, lo passiamo nella pastella e poi subito nel pan grattato con un po' di sale. A questo punto friggiamo in abbondantissimo olio extravergine e gli arancini sono pronti. Se volete leggere la notizia la trovate sul blog vegan blog www.veganblog.it, perché è una notizia molto lunga, quindi non penso che la potete ricordare a memoria. E sì, con questo penso che ci possiamo salutare. Ricordiamo soltanto i contatti, che sono il blog http://. È importante dirlo. anche no, però insomma, vabbè, per dirlo, radioposum.noblogs.org. E l'indirizzo mail lagazzaladra@inventati.org. Brava. E niente, rilanciamo l'appuntamento per lunedì prossimo, sempre dalle 22. Per questa scoppiettante nuovo inizio di trasmissione, abbiamo mille idee per quest'anno. Sì, ancora da mettere in atto. In atto, sì. Va bene. Un ultimo saluto a chi è privato della libertà personale. Siano essi animali umani o non umani. Ciao ciao. Ciao a tutti.